Bella, raga, fantastico, ce l'abbiamo fatta, siamo in diretta, la primissimissimissima puntata di Strip Trip in diretta. In diretta sì, perché prima non erano mai state in diretta, sempre registrata, problemi tecnici, cose varie, invece no, stasera spacchiamo. C'ho anche la scaletta dei pezzi, è una cosa, la tecnologia scritta su un foglietto di carta, neanche completa, ci sono solo due pezzi. Va bene, comunque... ci siamo, io sono qua col mio computer, microfono di fronte, tutta la scaletta, tutta la roba di cui parlare. Mi raccomando, scrivetemi sulla pagina di Facebook, non lasciatemi passare una papera, voglio che mi bastonate a manetta. Iniziamo, intanto vabbè, scrivo qualcosa subito sulla pagina, mi raccomando, controllate, commentate, caccaculo, sì. Via, pubblica, è fatta, è la diretta, caccaculo, e non va. Comunque, dai, torniamo seri, se si può torniamo seri. Benissimo, partiamo una roba veloce. Vi ricordate che abbiamo parlato di The Walking Dead la scorsa puntata? Non ve lo ricordate? Vi ricordo invece che c'è il podcast, quindi potete andare sul sito di Radio Bawal e sentirvi tutte le vecchie puntate. E dicevo The Walking Dead, sono andato avanti con sia col fumetto che con la serie. Ebbene, il fumetto continua a spaccare, la serie mi lascia un po' così, perché non so, c'è un po' quel l'angoscia, mentre invece il fumetto va avanti spedito e si legge uno dietro l'altro e invece la serie rimane un po' infossata dietro le angosce di Rick, che è il protagonista, quindi la terza serie è un po' così. Intanto vi dico anche che è partita le riprese della quarta serie di The Walking Dead, quindi a ottobre ricominceremo con la quarta serie. Il fumetto invece continua ad andare avanti a quanto pare, io sono abbastanza avanti, dal 2003 sono arrivato al 2010 nel giro di 3 settimane, quindi sto leggendo veramente tutti i giorni, praticamente mi leggo almeno una o due albi. Bene, vi ricordo, siamo in diretta, quindi... se c'è qualcuno che ci ascolta, a parte Davide che è nell'altra stanza, che vabbè commenterà prima o poi, partiamo con un pezzo, dai. Ci ritroviamo tra pochissimo, adesso ci ascoltiamo Brad Sachs con Borderline. I wish I was dead, but you can't go down. bella la diretta. La diretta, diretta, diretta, diretta. Siamo in diretta, ragazzi, in diretta con Strip Trip. Ebbene, andiamo avanti con la scaletta di questa sera. Stasera parliamo... Mamma mia, cosa mi hanno sparato? Il bello della diretta. Ci piace, ci piace. Allora, stasera parliamo dei libri, dei fumetti, dei film, di un'opera, un qualcosa che vi ha colpito particolarmente. Io ovviamente mi aspetto che i tre ascoltatori che abbiamo ci scrivano qualcosa sulla pagina di Facebook e intanto io vado con le mie preferenze. Partiamo subito con un librone, un'operona che mi ha veramente riempito la vita per quasi un anno, se non di più. E si tratta di Stephen King, il grande maestro del brivido, che nella sua opera massima, secondo me, La Torre Nera, spero che la conosciate, in pratica sono 7 libri, una saga lunghissima, una lunghezza spaventosa, però veramente a me è entrata nel cuore e beh, spacca, cioè da leggere, è lunga davvero, ci ho messo un anno, poi ho dovuto aspettare le uscite eccetera, però veramente bella piena, bella sostanziosa. E si tratta, come ho detto, di 7 libri, tratta una storia molto particolare, sono universi paralleli che si incrociano con la realtà, in un mondo tipo dove ci sono i cowboy, l'onore, lo spirito cavalleresco, la magia, tutto mescolato assieme. Stephen King ci racconta questa storia nel pienissimo stile del buon Stefano Re, ma secondo me con molti più momenti di riflessione rispetto alle sue opere più commerciali, anche se c'è da dire che ha venduto parecchio, quindi anche questa è in un certo senso un'opera commerciale, però è bello tosto anche sotto l'aspetto di contenuti. Anche qua, come sta capitando spesso ultimamente, mi tocca parlarvi della figura dell'eroe dannato, un po' decaduto, che in questo caso è appunto un pistolero, si chiama Roland ed è il protagonista del libro, aiutato da persone normali che arrivano dal nostro mondo, quindi dal mondo reale, nella sua dimensione, nel suo universo. Questo mondo in disfacimento, che sembra una sorta di futuro, un nostro futuro, insomma, si ritrovano a combattere alla ricerca di questa torre nera, rincorsi dall'uomo nero, l'uomo che ha molti nomi, insomma, una roba veramente sostanziosa, bella, bella carica, una storia molto complessa che non sto a raccontarvi troppo, ma che vi consiglio assolutamente di leggere. Provate almeno il primo libro, non è lunghissimo il primo libro, è giusto un'introduzione e poi decidete se andare avanti, però secondo me ne vale assolutamente la pena. È un'operona che Stephen King ha scritto in più di 20 anni, una roba veramente sproporzionata. E secondo me questa è un po' l'opera centro, è, non so, una finestra sulla mente di Stephen King, su cosa è veramente il mondo che lui ha creato con tutti i suoi libri, perché da qui ci sono collegamenti alle Notti di Salem, a mille altri libri scritti da lui che sono sempre... non so se lo conoscete Stephen King, ma spero di sì, lo chiamano il maestro del brivido, ma in realtà viaggia tantissimo tra il fantasy e la fantascienza, un po' di horror, sì, ma secondo me non è quello, non è uno scrittore horror, secondo me. In più, in questo libro, sempre La Torre Nera, ci mette pure se stesso dentro il libro, quindi lui è parte del libro, è un personaggio del libro, una roba veramente da pazzi, da psicopatici, consigliato assolutamente. E beh, indovinate un po', oltre al libro c'è anche il fumetto tratto dal libro, non uguale, parla sempre di Roland, sono delle mini saghe, quindi il protagonista è sempre lo stesso, ma io ho comprato i primi due albi, ma non mi ha convinto granché, e un disegno che non mi piace particolarmente, una coloritura un po' asettica, così un po' troppo artificiale, poco umana, e beh, mi ha un po' deluso. Vi consiglio il libro e non il fumetto, ma entrambi li potete trovare su Amazon, insomma, entrate in questo mondo che veramente spacca. Ancora nessuno mi ha scritto sulla pagina, deduco che non c'è nessuno che ci ascolta, ma non importa, io vado avanti da solo, me ne frego. Adesso ci ascoltiamo un pezzo e poi torniamo sempre in diretta. Questi sono gli Emerald Park con Obscured by Lies. Ebbene, qualche commento è arrivato, io ovviamente da buon finto nerd non ho aggiornato la pagina e Pozzi subito mi ha beccato. Certo che se poi non mi caghi quando ti scrivo. Ebbene Pozzi, solo una parola per te. Caccaculo. No, grande Pozzi, meno male che ci siete voi, c'è anche Armando che segue, che commenta. C'è anche una persona dalla Spagna e una persona femminile, sarà una ragazza di sicuro. Vero? Vero Armando, me lo confermi? Vediamo, lo sapremo a breve. Come vi dicevo, adesso parliamo di un gran bel fumettone. E dopo un libro fantastico, un fumetto deludente, che appunto era La Torre Nera, ora parliamo di un fumetto fantastico che ho letto veramente come se fosse un libro. E partiamo dall'autore. L'autore si chiama Cyril Pedrosa, e un ragazzo francese, cioè un ragazzo, ormai i suoi 40 anni buoni li ha, però mi piace pensarlo come un ragazzo. E studiato animazione alla scuola Lago Blain di Parigi, che è una scuola in Francia molto molto famosa per quanto riguarda l'animazione e le arti grafiche. Se volete dopo magari vi posto il sito internet, comunque cercate Gobelins su Google, la trovate di sicuro, e andate a vedere il sito. Se qualcuno è interessato alla cosa, vale assolutamente la pena. Fare quello vuol dire diventare professionisti. Infatti il buon Cyril dopo la scuola lavora per Walt Disney e fa l'assistente animatore addirittura per i film Il Gobbo di Notre Dame ed Hercules. Grazie all'esperienza in animazione il suo disegno acquista uno stile molto plastico, molto dinamico, e questa è una cosa che succede un po' a tutti i disegnatori che hanno fatto gli animatori o comunque che fanno entrambe le cose. Si riconoscono per questo, perché hanno delle pose molto plastiche, si vede che il movimento è molto reale, questo perché sono abituati già a creare il movimento reale proprio mentre fanno l'animazione, che lì non ci può scappare, non può esserci una posa sbagliata, il personaggio non può cadere perché si deve muovere, mentre nel disegno ci si può scappare, ecco, ogni tanto qualche scazzo parte. E dicevo, Cyril Pedrosa ha questo stile molto molto particolare, secondo me, anche a me piace molto, ovviamente anche talento, perché si vede che è bravo, che ha una buona mano e se la cava assolutamente bene sia col disegno che con il colore. In Francia, grazie al suo stile, vince un sacco di premi, un sacco di riconoscimenti, e grazie a questo successo in patria, ecco, riesce a esportare le sue opere anche all'estero. In Italia pubblica per edizione BD Tre Ombre, che è un fumetto che io purtroppo non ho letto, ma di cui ho letto grandissime recensioni e ve lo consiglio. Autobio, che invece è pubblicata da Q-Press, che, se non sapete cos'è, è una piccola casa editrice di Torino che io conosco quasi personalmente, insomma, si vede spesso alle fiere, cose, essendo tutti di Torino, insomma, ci si trova un po' e quattro chiacchiere si fanno. Consigliata, un sacco di titoli interessanti, andate a vederlo. E poi c'è l'ultima opera, che è del 2012 e si chiama Portugal. Ed è un'opera molto molto importante, molto pubblicizzata, osannata dalla critica, da stampa, recensione, come il suo più grande capolavoro, anche se qualcuno dice che sia Tre Ombre il suo capolavoro, ma insomma, un grande successone, grande effetto mediatico e, oltre che un'opera molto importante, è anche l'opera di cui parleremo questa sera. E ne parliamo dopo il pezzo che è Kaleidoscope degli Effervescent. Ci sentiamo dopo e continuate a scrivere sulla pagina Facebook. Go in my sleep. I wake up and I mess it up again. You don't know I'm here. You don't know the measures that I take. To see this transformation in this room, a canvas comes to life and starts to bloom, and you don't know that I've been painting you forever. The color in your eyes, the brightest ever treasure, and hello, it's my pleasure. E rieccoci qua con questa bella scivolata verso il silenzio. Bene, bentornati, siamo in diretta, abbiamo una pagina Facebook dove potete seguirmi, seguirci, dove commento, dove scrivo un sacco di roba, dove la gente mette non mi piace più, infatti abbiamo già perso un fan e vai, siamo assolutamente in passivo. Fantastico. E come vi dicevo, questa sera parliamo di Portugal, di Cyril Pedrosa. Questo è un fumetto che mi ha molto colpito, che mi è davvero tanto piaciuto e mi piacerebbe che anche qualcuno di voi scrivesse un libro, un fumetto, un film, un qualunque cosa gli sia rimasta molto, molto in fissa o che gli sia particolarmente piaciuta, così magari ne parliamo, se l'ho letto, se lo conosco, se non l'ho visto, eccetera, eccetera. Bene, sempre sulla pagina Strip Trip mi trovate, intanto io parto con parlare di Portugal. Aspettate un attimo che mi sono allegramente perso, fantastico. Bene, allora, Portugal, come vi ho detto, libro edito l'anno scorso, in Italia edito da Bao Publishing. Io ho comprato questo bel librone, sono le sue belle 250 pagine, che pesano i suoi bei due... C'è Davide che viene a fare i rumori della carta vicino al microfono, qua siamo a livelli... Lo sentite? È il professionismo, questa è la professionalità, ragazzi. Questa è la radio, la diretta, mamma mia. Veramente, fantastico. Continuiamo dopo, dai, le stronzate andiamo avanti dopo. Come vi dicevo, io ho comprato questo fumettone a Lucca, Lucca Comics, direttamente allo stand della Bao. Mentre c'era la super codazza per le firme di Zero Calcare, io mi sono piazzato lì in un angolino e dopo aver preso un tot di gomitate sono riuscito ad arrivare allo stand. Ebbene, qua mi sono un po' raccapezzato, ho trovato una, due, tre, quattro cose che mi piacevano e poi prendo in mano questo che già avevo adocchiato e beh, il ragazzo che vende cosa mi guarda e mi fa: bravo, se lo prendi ti faccio lo sconto, il miglior libro dell'anno. Ho detto: sti cazzi, mi fa lo sconto. Oltre al fatto che me lo sta consigliando lui che è lì, cioè... Quindi, insomma, l'ha venduto, ecco. E io non ho resistito più di 8 ore e poi sono partito. La sera stessa l'ho letto tutto, tutto di fila. Sono 3 ore buone di fumetto, quindi insomma abbastanza pesantuccio, abbastanza lunghetto, però assolutamente bellissimo, una gran bella edizione con copertina cartonata, stampata benissimo, colori fantastici e insomma proprio un bel libricino. E lui disegna molto bene, secondo me colpisce molto visivamente. Cyril ha un tratto molto netto, quasi graffiato, un po' ancora schizzato, in un certo senso semplice ma comunque complesso nella composizione generale dell'immagine. Ricorda un po' G.E.P. e Bastien Wills, se qualcuno di voi li conosce. A volte addirittura si riconosce anche un po' il tratto Disney, essendo lui, avendo disegnato per la Disney, ogni tanto gli salta fuori il tratto, un po' l'occhio un po' da film Disney, però non dispiace. Comunque sono bellissimi i colori, tutto ad acquerelli, studiati ad hoc per la situazione, per enfatizzare le emozioni e le situazioni particolari. Ad esempio Parigi è molto grigia, molto, molto bigia. Parigi o Marsiglia, non ricordo più bene in questo momento, comunque la città è molto, molto grigia, mentre invece il Portogallo è ricco di colori. Si vede il mezzogiorno perché è tutto, tutto bianco, tutti i colori si vedono netti, senza ombre, insomma proprio ben curato sotto questo aspetto. E la storia è all'altezza di tutto il resto. Come vi ho detto, è un po' lunghetto come fumetto, ma ne vale assolutamente la pena. E porta, diciamo che il protagonista si perde un po' nella sua vita, non riesce più a trovare il bandolo della matassa, diciamo, nella sua vita. È uno scrittore che dopo un primo successo non riesce più a ritrovarsi per scrivere il secondo libro e quindi riparte per andare alla scoperta delle sue origini in Portogallo, e da qui il titolo Portugal. Grazie a questo viaggio il protagonista si riscopre, si ricostruisce, ritrova le sue priorità e ne crea di nuove. E penso che sia un po' autobiografico, perché Cyril Pedrosa è francese, ma dal cognome si capisce che insomma non è originario della Francia. Pedrosa minimo minimo è o spagnolo o portoghese, infatti penso che così sia. queste sensazioni, infatti, le sensazioni che trovate nel fumetto, le emozioni che vengono fuori dal disegno, dal tratto, dalla storia, e molto anche dai colori, perché come vi ho detto è una coloritura molto molto molto emozionale. E secondo me le approvate davvero, infatti passano veramente in modo netto a chi legge, e tramite tutti gli strumenti che ha, appunto il disegno, il fumetto, la composizione e anche tanto il colore, ce le trasmette veramente in modo molto diretto e pulito. Se vi piacciono i fumetti, se vi piace leggere, se vi piacciono le storie comunque costruite e direi anche costruttive, ve lo consiglio assolutamente. Sono 27 euro, però secondo me se guardate sul sito della BAO lo trovate scontato, piuttosto che su Amazon, cose così, qualcosa riuscite ancora a ricavare, però davvero da leggere e assolutamente da tenere in libreria, perché una volta letto ne uscirete con gli occhi pieni di questi colori e di luoghi che non avete mai visto, ma che in fondo bene o male riconoscerete, perché chi non ha una nonna che vive in paese, da cui quando andate ritrovate un po' i gusti, i sapori e le sensazioni che avevate quando andavate a trovarla da bambino, piuttosto che, non lo so, al paesello lontano dalla città, e questo salta molto fuori. Io, come vi ho detto, ve lo consiglio, e a me ha fatto venire voglia, era un momento particolare della mia vita, mi ha dato la spinta per fare qualcosa, per cambiare, e alla fine è un po' questo il tema principale di tutta la storia, il cambiamento, perché si tratta di cambiamento, cioè quando i genitori, i nonni del protagonista se ne vanno dal Portogallo, vanno in Francia, e allo stesso tempo si parla di cambiamento quando lui in Portogallo non vuole più tornare in Francia, ritrova la pace dentro di sé, ritrova se stesso, riscopre le sue origini e cambia, evolve, rinasce. Ecco, bello, gran bel fumetto, consigliato. Se proprio vogliamo trovare qualche difetto, io ne ho un paio. Come vi ho detto, la lunghezza, che è un po' tanta, secondo me a metà comincia a venire voglia di smettere di leggere. Non ce la si fa forse a leggerla tutta ad un fiato, però io ce l'ho fatta, quindi penso che ce la potete fare. L'altra cosa è il lettering in italiano, che mi ha lasciato un po' deluso, forse un po' tosto, un po' pesante, un po' fermo rispetto allo stile del disegno comunque. Bene, direi che ci salutiamo con un altro pezzone, ma ci risentiamo assolutamente subito dopo. Io intanto riaggiorno subito la pagina di Facebook, così vediamo se qualcuno ha scritto ancora qualcosa. Sì, c'è un commentino di Armando, ma adesso gli rispondo durante il pezzo. Intanto ci ascoltiamo i Sinkhole con Waterbug. Have a nice day, it's late in the evening and you should be home by now. Don't chase the girls. Yeah. Eccoci qua. Il Davide era di là che cazzeggiava. Adesso mi ha sparato il volume a palla. Chiamasi il bello della diretta. Abbassami sto volume che non sento più. Bravissimo, ce l'abbiamo fatta. Ha detto un bel cazzo. Dai, dai, non è un problema. Siamo in diretta, quindi lo sappiamo che ci sono questi problemi. Allora, io vi ho parlato dei fumetti, dei libri che mi hanno colpito particolarmente. Ne abbiamo parlato di due: Portugal di Cyril Pedrosa e La Torre Nera di Stephen King. E voi invece, qualcuno che mi scrive sulla pagina Facebook anche solo il titolo? Non si può in anonimato, ma insomma non critico nessuno e vediamo di parlarne, magari un commentino. Insomma, tanto sarete tutti lì a prendermi per il culo per le cose che sto dicendo. Che cazzo, dite qualcosa anche a voi, così vi prendo un po' per il culo anch'io. Ah, lo faccio davanti a tutti. Scusate. No, non è vero, dai. Sto scherzando. Intanto sto cercando. Non è difficile parlare e schiacciare Ctrl V. Ecco, infatti. Vi ho postato, mi sto postando una bellissima intervista appunto a Cyril Pedrosa, che tratta dallo Spazio Bianco. Lo spaziobianco.it, che è un blog molto, molto interessante, che io seguo assiduamente, per cui lavora anche una mia, diciamo, amica, un'amica acquisita, perché è la ragazza di un mio carissimo amico, Gianni Epinotto, che vedete spesso commentare sulla pagina Facebook. Lei è Claudia e sulla pagina potete trovare anche un paio di sue recensioni. Ecco, vi ho postato in questo momento l'intervista a Cyril Pedrosa, potete leggerla, è molto, molto interessante, a me lui piace molto, è molto, molto schietto, mi piace, bravo, simpatico, eccetera. Mi sta ancora un po' qui che abbiamo perso quel fan, ma non importa, recupereremo. E bene, sto cercando di aggiornare per vedere se qualcuno ha provato a scrivere, ma non vedo alcunché. Dunque, fa niente, dai. Come vi ho detto, abbiamo parlato di Cyril Pedrosa, abbiamo ricominciato a parlare di fumetti veri e propri, quindi lasciamo un po' da parte l'aspetto film barra fumetto o film tratti da fumetto e viceversa, e ricominciamo a parlare un po' di fumetti veri e propri. Se volete, ovviamente mi trovate sempre comunque sulla pagina Facebook, se volete scrivermi in privato, insomma, in qualsiasi modo io quando posso provo, cerco a commentare. Intanto noto un commentino da qualche parte, andiamo a vedere. Ah no, sono io stesso che... mi hanno detto che continua ad aggiungersi gente in ascolto, quindi sono ben contento. Io saluto tutti quanti, chi conosco e chi no. E bene, come vi dicevo, ricominceremo a parlare di fumetti. Io spero di portarvi presto Bon, che è un fumettone che ho fatto leggere anche a Davide che è di là, che rispetto assolutamente, un fumettone nel vero senso della parola, anche questo è un'opera massima, una raccolta di albi editi negli Stati Uniti sempre, ma molto, molto più europea come idea, ecco, molto più poco americana, insomma, molto bello, mi è piaciuto moltissimo e anche questo è un fumetto che mi ha riempito la vita per un tot di tempo, perché è veramente impegnativo. Ne parleremo magari la prossima puntata, magari quella dopo ancora, dipenderà come si evolvono le cose. Intanto mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi è andato a Napoli al Comic Con. So che appunto Gianni e Pinotto ci doveva andare, ma non so se poi alla fine ci è andato, non mi risponde ai messaggi, quindi spero che stia ascoltando, così lo cazzo in diretta. E beh, se qualcuno ci è andato mi faccia sapere. A me Napoli non è che attira tanto, ve lo posso dire. Probabilmente punterò di più sulla fiera del libro di Torino, che sarà verso metà maggio, mi sembra il 16 al 20, non sono sicuro, non lo sa neanche Davide. Bene, e quindi insomma parleremo magari anche della fiera del libro, vedremo se c'è qualche autore interessante che va a parlare lì. Io direi che siamo sul chiudere. Primissima fantastica esperienza in diretta, all'inizio eravamo tutti eccitati, adesso vedo il Davide un po' triste, mi ha fatto una faccia così un po' delusa, non so, è già finita, sì, adesso non vorrebbe che andasse ancora un po' avanti, ancora un pezzo, di cosa parliamo, ancora un pezzo, ogni tanto c'è un fantastico beep che mi stura le orecchie, mi ha trapassato il cervello da parte, voi non lo sentite, ma mi ha veramente trapassato il cervello da parte a parte. Io adesso ho quattro orecchie praticamente. Cosa posso dirvi? Dai, vi lancio ancora un pezzo e poi dopo riparliamo delle mie quattro orecchie. Sono gli Steep con Forbidden e ci risentiamo ancora dopo, basta, che palle. I know you won't forgive me for what I plan to do. I know it's strange, believe me, but that's my attitude. Tornati. Il Davide mi abbassa la musica che puntualmente mi spara nelle orecchie e continua a costruire orecchie sulle orecchie. Bene, siamo tornati a 66 like, fantastico. C'è il Buck che a cui piace Strip Trip, fantastico il Buck, e ha anche scritto qualcosa il Buck. Ciao Buck. In un momento in cui è di moda umanizzare quelli che un tempo dovevano essere gli infallibili protagonisti, una storia parzialmente autobiografica e di riflessione personale mi ha incuriosito, lo andrò a reperire. Bravo da fare, come vi ho detto lo potete trovare su Amazon e altrimenti direttamente dal sito Bao Publishing. Ve lo consiglio, strabello, veramente un fumettone, e Buck, leggitelo. Il Davide invece mi manda, nonostante sia a un metro e mezzo da me, mi manda i messaggi sulla pagina e mi dice che a lui ha cambiato la vita a leggere Watchmen. Watchmen, che vi ricordate, ne abbiamo già parlato in una delle puntate precedenti, mi sembra la 6 o la 7, no, forse prima, non mi ricordo più. La 6, dovrebbe essere la 6. Comunque potete trovare tutte le puntate in podcast direttamente sul sito di Radio Bawalla. Io ogni tot riproporrò le puntate, e la puntata di stasera, eccezionalmente di lunedì, eccezionalmente in diretta, la ritrovate in replica domani sera. E sì, scusate, domenica sera, papera mia, buono il Davide che mi corregge. E quindi domenica sera ritrovate la puntata in replica, e ovviamente la trovate credo da domani o più tardi dopodomani in podcast. Il Davide mi confermerà, da domani in podcast, non mi caga, comunque beh, ve lo dico io, sì, da domani in podcast, sì, confermato. Ebbene, felice di essere tornato in pari con i fan. Siamo 66, ragazzi. La crew di Strip Trip non cresce, ma neanche cala. Quindi per stasera siamo in pari. E beh, sono felice di avervi chiacchierato. Comunicazioni in servizio: se Martino mi sta ascoltando, sappia che per me va bene mercoledì sera giocare a calcetto. Quindi ci sono. E invece posso, che me lo vieta. Anzi, se qualcuno vuole venire a giocare, ben venga, scrivetemi, perché siamo sempre a corto di giocatori, quindi un messaggino e via, organizziamo una roba veloce. Siamo scarsi, quindi non professionisti, grazie. E bene, via. Direi che chiudiamo. Io ringrazio Davide, ringrazio tutto Radio Bawalla, Marco che è di là che sta ascoltando, che saluta anche lui, lo vedo che sta salutando attraverso il muro, no, non lo vedo, però sono sicuro che sta salutando, eccolo. E bene, continuate a seguire Radio Bawalla, noi siamo sempre qua, sempre pronti, sempre con l'acqua alla gola al fare le cose, sempre un po' raffazzonati, ma ci mettiamo passione, ci mettiamo voglia di fare, quindi continuate a seguirci. Le cazzate le diciamo, le facciamo, ma qualcosa di serio anche lo diciamo, quindi sempre presenti, noi siamo sempre qua. E c'è ancora un pezzo. Io vi saluto, ci risentiamo alla prossima puntata, che vedremo quando sarà. Vi seguite la pagina Facebook, lo saprete. Saluto tutti, chi mi conosce e chi no, soprattutto chi no, perché chi mi conosce lo vedo già sempre, quindi chi non mi conosce, chi non vedo, lo saluto. E bene, un bacio, e ora vi lascio con The League, Out of Control. Buona serata. Baby, my hands waving. But sometimes I think I'm crazy. I'm coming to tell you I'm sorry. Oh baby, I know you hate me. This guy, he was taking your hand. You're out of control. I was out of control. No more I saw you. No more I need you. I don't care. My life is over. seen this boy who was touching your hair. Oh, how I control. I was out of control. Then run, run.